Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un friulano che vive a Taiwan, testimone diretto del violento terremoto che nelle scorse ore ha provocato morti e feriti nell'intera isola asiatica. Da oltre 5 mesi il passo Monte Croce Carnico non è percorribile a causa di una frana e non lo sarà nemmeno nella prossima stagione estiva. Il tema è stato al centro di un'apposita audizione in Consiglio regionale. Il segretario generale nazionale della UILM, Rocco Palombella, a Palmanova per illustrare davanti a un centinaio di delegati delle tute blu la piattaforma sul nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici. Non sono mancati riferimenti anche alle crisi del settore automotive, di Electrolux e Wärtsilä. La Regione Friuli Venezia Giulia prepara la sua partecipazione alla rassegna Vinitaly, illustrato il programma delle iniziative da portare alla Fiera di Verona. Sono tante anche per il mondo dell'edilizia le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, in particolare potrà essere determinante per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei cantieri. 3 studenti dell'Istituto Tecnico Triestino Carli si sono aggiudicati i primi posti nelle finali delle Olimpiadi di Statistica. Si inaugura questa sera a Gorizia una mostra che vuole trasmettere sentimenti di gentilezza e amicizia. Human Touch è il titolo, per enfatizzare l'importanza del benessere sociale, cioè di trattare le persone in modo da farle sentire bene. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beaz e Daniele Lettige, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 4 aprile. In apertura subito la testimonianza di un friulano che vive a Taiwan in merito al violento terremoto che ha provocato una decina di morti e centinaia di feriti, ma il bilancio è ancora chiaramente parziale, nell'intera isola asiatica. Quando la terra trema, per un friulano oltre i 50 anni è impossibile che la testa non vada lì al 6 maggio 1976, ma per chi vive a Taiwan, dove ieri c'è stato un sisma 10 volte più forte, le cui immagini dei palazzi collassati hanno fatto il giro del mondo, ormai è abitudine. Ci si deve abituare, perché qui è all'ordine del giorno, ci sono ogni giorno delle microscosse, poi più o meno intense, però ne avevo già sentite, a parte quella del 99 che è stata proprio tremenda, molto peggio di questa. Nel corso di questi 25 anni ce ne sono state altre. Antonio Finotti, che da 25 anni vive relativamente distante dall'epicentro, come gli altri furlans del Fogolar dell'isola, sta bene. I danni a persone, vista la potenza, sono stati contenuti, merito anche dell'alert sul telefonino. Ci è arrivato un SMS dove appunto c'è allerta earthquake, e quindi praticamente ti invitano a uscire e fare attenzione. Quanto prima è arrivato rispetto alla scossa questo messaggio? Diciamo 5-7 secondi prima. Nel 99 il terremoto con epicentro al centro dell'isola fu molto più forte e fece più danni, tanto da far pensare addirittura a un attacco militare della vicina Cina, un po' come quando nel 1976 Finotti, ancora ragazzino, non capiva cosa stesse succedendo. Il 99 è stato terribile, perché io poi, fra l'altro, dopo la prima scossa, già c'erano tensioni con la Cina e pensavamo a un bombardamento dei cinesi, perché si vedevano dei lampi, ma erano praticamente i lampioni che cadevano e praticamente creavano queste scintille. Rispetto a 76, io ero ragazzino e mi sembrava, pensavo fossero i carri armati Leopard che praticamente passavano, sono nella zona di Palmanova, quindi all'epoca c'erano tanti carri armati che passavano durante il giorno. Mi ha fatto specie che passassero le 9 di sera e siamo usciti mio fratello, non abbiamo visto niente, e detto, ma perché, cos'è? Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Procede l'iter per i lavori di ripristino della viabilità del passo di Monte Croce Carnico, chiuso a causa di una frana dallo scorso dicembre. Oggi il tema è stato al centro di un'apposita audizione in Consiglio regionale. Da oltre 5 mesi il passo Monte Croce Carnico non è percorribile e non lo sarà nemmeno nella prossima stagione estiva. Un danno notevole per il territorio, in particolare per Timau, rimasta di fatto priva della clientela austriaca al di là del passo. Una frana da 50.000 metri cubi fuori dal comune, come l'ha definita Mario Liberatore, responsabile ANAS per Veneto e Friuli Venezia Giulia, nell'audizione in 4a Commissione in Consiglio regionale. L'ingegnere Liberatore ha presentato il progetto per la messa in sicurezza del costone per il ripristino della carreggiata, previsto previsto anche un sistema di monitoraggio e preallerta. Nella migliore delle ipotesi i lavori termineranno entro l'anno, ma i tempi dipendono anche dalle autorizzazioni, compresa quella della soprintendenza, ha spiegato Liberatore. Se non ci saranno risposte immediate, si perderanno altri 2 mesi. La finestra del silenzio assenso prevista dalla legge. Il cantiere sarà operativo per 9 mesi circa, si stima. Iniziare presto è importante per evitare di sospendere i lavori a causa delle difficili condizioni invernali della zona. Il progetto è stato discusso ieri dall'assessore regionale Cristina Mirante con il vicepresidente della Carinzia, Martin Gruber, in un incontro a Kirchmauten, la località austriaca più interessata dalla chiusura. Sullo sfondo la consapevolezza è che nel medio-lungo periodo ci vuole un'alternativa, un percorso non soggetto all'alto rischio geologico che comporta attualmente la statale. L'ipotesi più economica è quella di una variante più a valle. L'eventuale traforo costerebbe circa 700 milioni, ha spiegato il Liberatore di ANAS. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A seguito del distacco di materiale dalla volta, su indicazione dei vigili del fuoco, è stato chiuso a Trieste il sottopasso centrale di via Cappuccini. Gli accertamenti successivi, svolti dal personale tecnico del comune, hanno accertato che si rendono ora necessari i lavori di consolidamento del sottopasso nella parte centrale. Sono lavori di competenza di RFI, che ha indicato il periodo dal 10 aprile al 17 maggio per l'esecuzione delle lavorazioni. Sino a che i lavori non verranno conclusi e non sarà possibile riaprire il sottopasso, le auto che dal centro devono accedere a via Cappuccini potranno farlo solo provenendo dalla stazione su via Pola e svoltando a destra. Da oggi anche la stazione di Palmanova dispone di 3 binari da 750 metri, standard europeo, per consentire la gestione di treni merci di quella lunghezza, concepiti per abbattere i costi di trasporto e aumentare l'attrattività della modalità su ferro. Nei primi mesi di quest'anno sono stati infatti adattati al cosiddetto modulo 750, il primo, il terzo e il quarto binario, anche allo scopo di aumentarne la capacità dell'impianto. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo FS, hanno comportato, oltre all'allungamento dei binari in direzione Cervignano, la predisposizione del primo binario in parallelo all'attuale binario di corsa per il futuro raddoppio della linea Udine-Cervignano e l'adeguamento del passaggio a livello sulla statale regionale 252. Rinnovata completamente la linea elettrica di trazione dei treni, il sistema di segnalamento, i circuiti di binario e il sistema di controllo marcia treno. L'impegno finanziario complessivo è stato di circa 14 milioni di euro. E oggi a Palmanova il segretario generale della UILM, Rocco Palombella, per illustrare davanti a un centinaio di delegati la piattaforma sul nuovo contratto nazionale dei metalmeccanici. Non sono mancati però riferimenti anche alle crisi locali del settore automotive, di Electrolux e di Wärtsilä. Con più salario e meno orario tuteleremo di più tutti i lavoratori metalmeccanici. Ha esordito così Rocco Palombella, segretario generale della UILM, in occasione dell'attivo regionale del Friuli Venezia Giulia, che si è tenuto questa mattina a Palmanova, riunendo un centinaio di delegati per un primo confronto sul rinnovo della piattaforma contrattuale delle tute blu. Un comparto che in regione assorbe oltre 55.000 addetti, che punta ad ottenere un incremento salariale di 280 euro mensili e la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, coniugando meglio la vita familiare con il lavoro. Rocco Palombella, segretario nazionale della UILM. Noi stiamo completando la consultazione sui territori e le assemblee con i lavoratori. La prossima settimana ci sarà il referendum da parte di tutti i lavoratori per l'approvazione della piattaforma e successivamente incontreremo Federmeccanica e Assistal per illustrare i contenuti della piattaforma. Analizzate durante l'incontro le vertenze industriali aperte, a cominciare da quella triestina di Wärtsilä, annunciata nel luglio del 2022 con 401 esuberi. Noi aspettiamo l'incontro con questo nuovo partner che è venuto fuori, MSC, che a differenza delle altre ha dichiarato di non voler dichiarare esuberi e questa cosa a noi non può che farci piacere. Il tema però che ha annunciato che bisogna ridurre le retribuzioni dei lavoratori e noi ovviamente non saremo d'accordo. Sul fronte Electrolux, ribadito il no al colosso svedese di utilizzare in modo costante i contratti di solidarietà, aggiungendo ulteriori fermate produttive. Abbiamo firmato un'intesa pochi giorni fa per quanto riguarda il piano di incentivazione all'esodo degli impiegati, però dobbiamo provare a incalzare Electrolux perché riduce i volumi e continua a utilizzare i contratti di solidarietà, un'azienda che in queste condizioni non ci dà la garanzia della prospettiva del futuro. Palmanova, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. È lo slogan scelto da CGIL, CISL e UIL per celebrare anche quest'anno il 1° maggio. Sarà Monfalcone a ospitare la manifestazione principale dedicata all'Europa, che si svolgerà a partire dalle ore 10 in Piazza della Repubblica. Dopo gli interventi dei delegati delle tre organizzazioni, i segretari generali Landini, Sbarra e Bombardieri concluderanno i comizi. La regione Friuli Venezia Giulia prepara la sua partecipazione alla rassegna Vinitaly, illustrato poco fa il programma dell'iniziativa da portare alla Fiera di Verona. Vinitaly, occasione per presentare il meglio di vini e distillati regionali agli operatori italiani, ma anche testa di ponte per aprire nuovi mercati all'estero in un momento di rallentamento del settore vitivinicolo. La più importante fiera di settore al quale il Friuli Venezia Giulia parteciperà con una collettiva da 90 imprese al padiglione 6, più altri 28 presenti in autonomia, potrebbe facilitare l'accesso alle fiere di settore in Brasile nel 2025. Già avviati i contatti anche con le comunità friulane e venete in loco. Con la Germania in crisi si guarda pure agli Stati Uniti e all'Australia, mercato quest'ultimo però più difficile dal punto di vista logistico. Come indica l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier, bisogna iniziare a creare quelle occasioni di incontro di mercati diversi rispetto a quelli ai quali siamo già abituati e come amministrazione, aggiunge, ci faremo parte attiva e diretta perché non si può chiedere a un sistema produttivo di impegnarsi anche economicamente per andare a verificare un mercato che sta magari distante migliaia di chilometri dalla nostra regione. Dopo le fiere di settore in Francia e Germania, anche per Vinitaly l'obiettivo principale è creare le condizioni migliori per vendere. Anche in quest'ottica si legge il passaggio della gestione operativa da ERSA a Unidoc, ovvero ai consorzi, sempre sotto la regia della regione. Il budget per tutte le fiere supera i 2 milioni di euro. Anche a Verona, dal 14 al 17 aprile, la partecipazione delle aziende agricole e vitivinicole sarà coperta al 100% da contribuzione pubblica. Cambierà il percorso nello stand con le aziende della collettiva raggruppate per 6 zone di denominazione. In enoteca potranno essere degustate oltre 450 etichette. Regione presente anche nelle attività collaterali, masterclass e assaggi con compratori internazionali selezionati. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12.42 siamo al tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi, a Gorizia 16 gradi e mezzo, a Pordenone 16, a Udine 15 gradi. A Tolmezzo 12 gradi, a Forni di Sopra e Tarvisio 11, a Sappada 10, a Piancavallo 6 gradi. Sul Monte Lussare e sul Monte Zoncolan 5 gradi, sulla costa a Lignano 17 gradi, a Grado 14 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Nel pomeriggio cielo in genere variabile su alta pianura e zona montana, probabile maggiore nuvolosità con possibilità di qualche debole pioggia e forse anche di qualche rovescio sulle prealpi. Sulla costa in quota soffierà vento moderato in prevalenza da sud-ovest. Domani cielo in genere variabile su alta pianura e zona montana, cielo nuvoloso con possibilità di qualche locale debole pioggia sulle prealpi Giulie. Sulla costa vento moderato in prevalenza da sud-ovest. La cronaca, 300 persone identificate, 60 autovetture controllate e 3 persone di nazionalità egiziana denunciate per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. È questo il bilancio dei controlli effettuati il martedì 2 aprile dalla Polizia di Stato di Trieste con il rinforzo di 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Padova. Un'operazione disposta a seguito della richiesta del Ministro dell'Interno di intensificare i controlli a livello nazionale in concomitanza delle festività di Pasqua. Resi noti i risultati dell'attività della Polizia Locale di Trieste nell'ambito dei controlli nel settore del commercio ambulante. Poco meno di 200 sanzioni nel primo trimestre del 2024, la maggior parte delle quali, 69, a persone che chiedevano l'elemosina, seguite da 30 per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e 27 per bivacco, e poi auto lasciate in sosta vietata con gli indicatori di parcheggio lampeggianti, mozziconi a terra, ambulanti senza autorizzazione, ubriachezza, porto di coltello e 14 violazioni alla legge regionale sul benessere degli animali. Sono il bilancio di questo inizio d'anno del nucleo di interventi speciali della Polizia Municipale di Trieste, che si occupa principalmente di contrastare il degrado urbano. 22 gli agenti che ne fanno parte e 4 le pattuglie quotidianamente impegnate sul territorio. Rispetto all'anno scorso, ha spiegato il comandante Walter Milocchi, è aumentato il numero delle sanzioni, ma soprattutto in conseguenza dell'aumento degli operatori e dei controlli, in particolare nei giardini e nelle aree verdi della città. Sempre dallo scorso anno gli agenti del NIS sono armati a scopo di deterrenza, ma finora non ci sono stati episodi che abbiano richiesto l'uso delle armi. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Comprendere i processi cellulari di invecchiamento e ricercare nuovi agenti terapeutici da utilizzare anche contro il cancro. È quanto si propone il progetto di ricerca Seneca, guidato dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine e cofinanziato per 28 mesi con circa 1 milione di euro dall'Unione Europea. Al progetto collaborano le Università di Trieste e di Salisburgo. Lo studio rientra nel programma Interreg Italia-Austria. La RAI è al fianco della Fondazione Italiana Autismo per sostenere la ricerca sull'autismo fino al 14 aprile. Donando al 45585 5-10 euro da telefono fisso o 2 euro con sms. Un bambino su 77 nella fascia tra i 7 e i 9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico. Sono circa 500.000 le famiglie in Italia in cui è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico. Solitudine e isolamento sono parole pronunciate spesso dalle famiglie, sono infatti loro le più colpite. Sfidiamo l'autismo. Il numero di telefono per la donazione, lo ripetiamo, è il 45585. Dermatite atopica. Oggi per la campagna nazionale dalla parte della tua pelle i dermatologi visitano gratis coloro che si prenotano al numero verde 800 086 875. Info anche sul sito della SIDEMAST, la Società Italiana di Dermatologia. Nella nostra regione aderisce l'Ospedale Maggiore di Trieste, responsabile la professoressa Iris Zalaudek. A Remanzacco, serata informativa, alleati contro le zanzare, nell'auditorium comunale dalle 20.30 con Manlio Palei, direttore del servizio di prevenzione della regione, la testimonianza di un gruppo di cittadini che si è messo d'accordo per gettare le pastiglie larvicida nelle caditoie ogni 15 giorni a turno, risolvendo così il problema. Tre studenti dell'Istituto Tecnico di Trieste, Carli, si sono aggiudicati i primi posti nelle finali delle Olimpiadi di Statistica. Tre vittorie in 3 anni, stiamo parlando delle Olimpiadi della Statistica, un concorso nazionale promosso dall'Istat, e siamo all'Istituto Statale Carli di Trieste, un istituto superiore commerciale a indirizzo appunto economico, dove le statistiche in realtà non fanno parte del programma integrale, ma grazie all'impegno di tanti studenti interessati a questa materia e alla professoressa Alessandra Savant che li guida, ogni anno è una vittoria. Come è andata quest'anno, professoressa? Quest'anno è andata molto bene, perché per la prima volta ci siamo classificati al secondo posto nella gara squadre nazionale e quindi siamo potuti accedere alla finale europea che si disputerà in questi giorni. Si tratta di, in questo caso, di preparare un progetto video quasi un po' anche artistico in cui la statistica si coniuga alla capacità di comunicare attraverso i dati. Qual è il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno è il confronto tra l'epoca passata e i giorni nostri per cercare di comprendere se si stava meglio prima o se si sta meglio adesso. E dovremo darci da fare per reperire tutta una serie di dati, analizzarli e cercare di trarre una conclusione su questo argomento. Un'altra cosa eclatante è che il migliore studente italiano per le classi prime di queste Olimpiadi della Statistica è risultato essere proprio un suo studente. Come si chiama e se se l'aspettava? Si tratta di Giuseppe De Marinis. Non posso dire che mi aspettavo una vittoria così, però ero sicura che si sarebbe posizionato tra i primi, perché è veramente uno studente che promette benissimo, nonostante sia molto giovane, perché ha solo 14 anni. Primo fra quasi 2.000 che hanno partecipato delle classi prime di tutta Italia. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste investe sul benessere degli studenti e, oltre al supporto psicologico, propone anche un percorso di educazione sentimentale. A offrirlo è l'ARDIS, Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio del Friuli Venezia Giulia. Se ne è parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Conoscere meglio se stessi e l'altro in una relazione, trovare elementi comuni, percepire i segni della gelosia e dei suoi eccessi, far accettare le scelte di vita o la propria identità sessuale da parte della famiglia, del gruppo o della società. Lavora su questo l'educazione sentimentale, un nuovo percorso proposto alle studentesse e agli studenti dell'Università di Trieste, una delle poche a livello nazionale che ha scelto di investire nel benessere emotivo dei giovani per prevenire situazioni di conflitto. Raffaella Brumat del Servizio di Consulenza Psicologica dell'ARDIS. E nel percorso da noi inteso è in realtà uno spazio di condivisione e discussione nel gruppo psicologico, un gruppo nutrito di circa 30 persone, sui temi relativi ai rapporti amorosi e sentimentali. L'intento ultimo è quello di favorire la conoscenza dell'altro come prevenzione fondamentale alle varie situazioni che possono degenerare anche in maniera pericolosa. Nel 2023 sono stati più di 900 gli studenti che si sono rivolti agli psicologi dell'ARDIS e ad oggi ce ne sono già oltre 400. L'agenzia offre diversi strumenti volti al benessere degli universitari, ma anche degli studenti delle scuole superiori. Pierpaolo Olla, direttore dell'ARDIS. Da 2 anni in questa parte abbiamo esteso un servizio che è abbastanza analogo, quel bonus psicologico. Quindi cerchiamo di anticipare questi fenomeni, soprattutto conseguenti anche alla pandemia, quindi al post-Covid, che hanno visto l'isolamento e la difficoltà nel relazionarsi, nell'approccio con i propri coetanei da parte dei ragazzi. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. Lo sport con il basket, una notizia di mercato. Il roster della Pallacanestro Trieste si rinforza con l'innesto dell'ala 22enne Leo Menalo, croato di nascita ma di formazione italiana. Arriva a Trieste dopo aver trascorso le ultime 2 stagioni tra le fila della Virtus Segafredo Bologna. Prima ancora aveva giocato con la Stella Azzurra Roma in Serie A2, mentre la sua formazione cestistica è avvenuta nelle giovanili del Cibona Zagabria. Siamo entusiasti di avere Leo nella nostra squadra in questo momento cruciale della stagione, è il commento del general manager di Trieste, Michael Arcieri. È un giovane di grande carattere, passione per il gioco e un'eccellente etica del lavoro. Porterà abilità, atletismo e versatilità al nostro roster su entrambi i lati del campo. Si inaugura questa sera a Gorizia una mostra che vuole trasmettere sentimenti di gentilezza e amicizia. Human Touch è il titolo, per enfatizzare proprio l'importanza del benessere sociale, cioè di trattare le persone in modo da farle sentire bene. La mostra è visitabile all'Auditorium di Via Roma 5 fino al 14 aprile, a ingresso libero. L'organizza Artes, associazione di Udine incentrata sulle competenze emotive. Collaborano il Punto Giovani e gli studenti del Polo Liceale, che faranno da guida della mostra con le opere che sono state realizzate da giovani studenti internazionali. Sentiamo allora l'intervista alla presidente di Artes, Diana Rucli. La mostra in realtà è l'atto finale di un percorso fatto con un gruppo di studenti nelle scuole. Noi lavoriamo infatti facendo formazione alle competenze sociali e operiamo anche nelle scuole in questo senso, e la parte finale di questo percorso sviluppa temi legati alla creatività e al benessere. Con i ragazzi riflettiamo quanto poter esprimere la propria creatività possa essere un veicolo anche per il benessere psicofisico. Quindi la mostra porta alcuni lavori che sono stati prodotti dai ragazzi delle scuole superiori, dei licei di Udine che in passato hanno partecipato a questi percorsi. E a loro abbiamo affiancato i lavori di giovani artisti under 30 che stanno riflettendo su queste stesse tematiche, sul benessere che si può raggiungere attraverso delle sane relazioni sociali. Ed è molto interessante per noi poter offrire anche al pubblico che visiterà la mostra la prospettiva dei giovani sul benessere sociale, che è un tema attualissimo, credo. Lei ha lavorato un po' a stretto contatto con questi giovani studenti liceali. Che cosa pensano delle competenze emotive, del benessere sociale? Li ha visti coinvolti? Sono coinvolti i ragazzi quando si offre loro uno spazio d'ascolto, anche in cui possano esprimere quello che provano. Fanno fatica, non è facile, ma non è mai stato facile, credo, no? Da adolescenti poter esprimere il proprio mondo interiore, anche quello emotivo. Però all'interno del percorso in cui i ragazzi sono ascoltati, sono anche invitati in qualche modo a esprimersi, questo viene fuori, e forse viene fuori più nella modalità espressiva attraverso un lavoro grafico, un fumetto, un video, più che con le parole direttamente. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Custodire la speranza è il titolo dell'ultimo libro di Don Mario Vatta, che oggi lui stesso presenterà a Muggia, alla Biblioteca Comunale, alle 17.30. Il volume è una collezione di omelie laiche pubblicate negli ultimi anni. Il sacerdote 87enne ha fondato 50 anni fa la comunità di San Martino al Campo, che grazie a 140 volontari accoglie persone in difficoltà in varie sedi a Trieste. Alcuni appuntamenti in regione: teatro, spettacolo teatrale in scena solo oggi al Politeama Rossetti di Trieste. Il titolo: Salveremo il mondo prima dell'alba, titolo della pièce, la compagnia Carrozzeria Orfeo. Al Kulturnidorm di Gorizia, Maria Elena Porzio, scrittrice udinese, presenta il suo libro Avevo già deciso, sulle guerre di mafia a Palermo negli anni 60. Dialoga con l'autrice il giornalista Enzo D'Antona. Alle 18.03. Al Teatro Miela. La scrittrice pordenonese Federica Manzon presenta alla libreria Minerva di Trieste il suo romanzo Alma alle 18. Fotografo e poeta Giacomo Garzia presenta due raccolte di immagini pubblicate nel 2023 al Caffè San Marco di Trieste alle 18. You Are Beautiful, riuso creativo degli spazi dimenticati per Gaspari Editori alle 18 in Galleria Spazzapanga Gradisca di Sonzo, scritto dalla storica Francesca Agostinelli. Orti e Verde a Trieste, un corso di formazione sugli insetti impollinatori e l'allevamento delle api in collaborazione con Legambiente, sarà al via oggi alle 17.30 in via dei Modiano, nel quartiere di San Giacomo. I temi dello sviluppo sostenibile in montagna alle 18.30 al Teatro Verdi di Pordenone, due donne che hanno scelto di vivere e lavorare in montagna nonostante le difficoltà, la scrittrice e allevatrice residente in Val d'Aosta Marzia Verona e l'agronoma abruzzese Manuela Cozzi. E alle 12.55 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Laura Serasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.